Ciao Majin Buu, sono Alessio. E ho capito che ho fatto una grande cavolata. E finisce qui, cioè. Poi. Capito, per me è... solamente far capire che tutti ragazzi, buone cose.